Mi hanno raccontato che il signor di Charlieu, a quel tempo, era preda quasi ogni giorno di crisi di depressione mentale, caratterizzate in realtà non tanto da divagazioni, quanto dal fatto che proclamava ad alta voce, davanti a terzi di cui dimenticava la presenza o la severità, opinioni che abitualmente teneva celate, per esempio la germanofilia. Per molto tempo, finita la guerra, piangeva sulla disfatta dei tedeschi, fra i quali metteva se stesso e diceva con orgoglio: «Eppure è impossibile che non ci prendiamo la nostra rivincita, perché abbiamo provato ad essere noi ad avere la maggiore capacità di resistenza e l'organizzazione migliore». Altre volte le sue confidenze prendevano un altro corso ed esclamava con rabbia: «Lord X, oppure il principe di... Non s'azzardino a ripetere quel che dicevano ieri, perché mi sono trattenuto a stento dal rispondergli: sapete benissimo di esserlo almeno quanto me». Inutile aggiungere che quando il signor di Charlieu, in momenti in cui, come si suol dire, non era del tutto presente, faceva queste confessioni germanofile o d'altro genere, le persone amiche che si trovavano ad assistere, si trattasse di Jupien o della duchessa di Guermont, erano solite interrompere le frasi imprudenti e darne per i terzi meno intimi e più indiscreti un'interpretazione forzata ma onorevole. «Ma santo cielo!» esclamò Jupien. «Avevo proprio ragione non volermi allontanare. Ecco che ha già trovato il modo d'attaccare discorso con un apprendista giardiniere. Addio, signore, è meglio che ci separiamo. Non posso lasciar solo neppure per un istante il mio malato, che ormai non è più che un grande bambino». Smontai di nuovo dalla carrozza un po' prima d'arrivare al palazzo della principessa di Guermont e ricominciai a pensare alla stanchezza e alla noia con cui il giorno prima, in quella che era considerata una delle più belle campagne di Francia, avevo tentato di trascrivere la linea che separava sugli alberi l'ombra dalla luce. Certo, le conclusioni intellettuali che ne avevo ricavato non ferivano oggi così crudelmente la mia sensibilità. Rimanevano loro le stesse, ma come ogni volta che mi sottraevo alle mie abitudini, che mi trovavo fuori a un'ora diversa in un posto nuovo, ero pervaso da un vivo piacere. Un piacere che mi sembrava oggi puramente frivolo, quello d'andare a una matinée dalla principessa di Guermont. Ma poiché sapevo adesso di non poter aspirare a niente di più che a dei piaceri frivoli, a che scopo negarmeli? Mi ripetevo di non aver provato, tentando quella descrizione, niente di quell'entusiasmo che è, pur non essendo il solo, un primo segno distintivo del talento. Adesso mi sforzavo di trarre dalla mia memoria altre istantanee, segnatamente istantanee, che essa aveva scattate a Venezia, ma bastava questa parola a rendermela noiosa come una mostra di fotografie, e non sentivo in me più gusto, più talento per descrivere ora quanto avevo visto un tempo, che ieri ciò che osservavo, con occhio minuzioso e smorto, in quello stesso momento. Fra un istante, tanti amici che non vedevo da molto tempo mi avrebbero sicuramente chiesto di non isolarmi più così, di consacrare a loro le mie giornate. Non avevo alcuna ragione per dire di no, giacché ormai avevo la prova d'essere un buono a nulla, la prova che la letteratura non poteva più darmi, o per colpa mia, essendo io troppo poco dotato, o per colpa sua, se essa era in effetti meno carica di realtà di quanto avevo creduto, la benché minima gioia. Se pensavo a ciò che m'aveva detto Bergotte: «Siete malato, ma non vi si può compiangere, perché avete le gioie dell'intelletto», come s'era sbagliato sul mio conto. Che poca gioia c'era in questa lucidità sterile. Per di più, se qualche volta avevo forse dei piaceri, non dell'intelligenza, li sperperavo sempre per una donna diversa. Di modo che se il destino m'avesse concesso 100 anni di vita in più e senza infermità, non avrebbe fatto che aggiungere prolungamenti successivi a un'esistenza tutta in lunghezza, di cui non si vedeva nemmeno l'interesse a prolungarsi più di così, a maggior ragione, per tanto tempo ancora. Quanto alle gioie dell'intelligenza, potevo forse chiamare così le fredde constatazioni che il mio occhio penetrante o il mio ragionamento corretto raccoglievano senza alcun piacere e che restavano infeconde. Ma proprio a volte, nel momento in cui tutto ci sembra perduto, giunge l'avvertimento che può salvarci. Abbiamo bussato a tutte le porte che non danno su niente e la sola attraverso la quale si può entrare e che avremmo cercato invano per 100 anni. L'urtiamo senza saperlo e si apre. Rimuginando i tristi pensieri di cui parlavo poco fa, ero entrato nel cortile di Palazzo Guermont e, distratto, non m'ero accorto del sopraggiungere d'una vettura. Al grido del conducente non ebbi che il tempo di trarmi bruscamente di lato e indietreggiai quanto bastò per inciampare, mio malgrado, nel selciato alquanto sconnesso, oltre il quale stava una rimessa. Ma nel momento in cui, recuperando l'equilibrio, posai il piede su una selce che era un po' meno alta della precedente, tutto il mio avvilimento svanì davanti alla stessa felicità suscitatami in periodi diversi della mia vita dalla vista d'alberi che m'era sembrato di riconoscere durante una passeggiata in carrozza nei dintorni di Balbec, dalla vista dei campanili di Martinville, dal sapore di una Madeleine intinta in una tisana, da tante altre sensazioni di cui ho parlato e che m'erano parse sintetizzate nelle ultime opere di Vinteuil. Come nel momento in cui assaporavo la Madeleine, ogni inquietudine riguardo al futuro, ogni dubbio intellettuale, erano dissipati. Quelli che mi tormentavano un attimo prima a proposito della realtà dei miei doni letterari e della realtà stessa della letteratura erano spariti come per incanto. Senza che io avessi fatto alcun ragionamento nuovo, trovato alcun argomento decisivo, le difficoltà, un attimo prima insolubili, avevano perso qualsiasi importanza. Ma stavolta ero ben deciso a non rassegnarmi ad ignorarne il perché, come avevo fatto il giorno che avevo assaggiato una Madeleine intinta in una tisana. La felicità che avevo appena provata era in effetti la stessa provata mangiando la Madeleine e delle cui cause profonde, allora, avevo rinviato la ricerca. La differenza, puramente materiale, stava nelle immagini evocate. Un azzurro profondo mi inebriava gli occhi, impressioni di freschezza, di luce abbagliante volteggiavano accanto a me e io, nel desiderio di afferrarle senza osare il minimo movimento, proprio come quando centellinavo il sapore della Madeleine tentando di far giungere sino a me ciò che esso mi ricordava, rimanevo a rischio di far ridere la fitta folla dei conducenti, a vacillare, come un attimo prima, con un piede sulla selce più alta, l'altro sulla selce più bassa. Ogni volta che lo facevo solo materialmente, quel passo mi risultava inutile. Ma se riuscivo, dimenticando la Martinengerman, a ritrovare ciò che avevo sentito, posando i piedi in quel modo, la visione abbagliante e indistinta mi sfiorava di nuovo, quasi volesse dirmi: afferrami al volo, se ne hai la forza, e tenta di risolvere l'enigma della felicità che ti propongo. E quasi subito la riconobbi, era Venezia, di cui i miei sforzi per descriverla e le sedicenti istantanee scattate dalla mia memoria non m'avevano mai detto niente, e che la stessa sensazione, provata un tempo su due lastre ineguali del battistero di San Marco, m'aveva restituita assieme a tutte le altre sensazioni collegate quel giorno ad essa, e rimaste in attesa, al loro posto, da cui un'improvvisa combinazione le aveva fatte imperiosamente uscire nella schiera dei giorni dimenticati. Allo stesso modo, il sapore della piccola Madeleine mi aveva ricordato Combray. Ma perché le immagini di Combray e di Venezia mi avevano dato in quel momento e in questo una gioia simile a una certezza e capace, senza bisogno d'altre prove, di rendermi indifferente la morte? Continuando a domandarmelo e deciso oggi a trovare la risposta, entrai nel palazzo di Germain, perché al compito interiore che ci siamo dati facciamo sempre passare davanti il ruolo apparente che recitiamo e che quel giorno era quello dell'invitato. Ma quando fui al primo piano, un maggiordomo mi chiese d'entrare un momento in un salottino biblioteca attiguo al buffet, sino a quando non fosse terminato il brano che stavano suonando. La principessa aveva ordinato che non si aprissero le porte durante l'esecuzione. Nello stesso istante, un secondo avvenimento venne a rafforzare quello delle due selci ineguali e ad esortarmi a perseverare nel mio compito. Un domestico, nei suoi sforzi infruttuosi per non far rumore, aveva urtato con un cucchiaio contro un piatto. Mi invase lo stesso genere di felicità suscitatomi dalle selci ineguali. Le sensazioni erano ancora d'un grande caldo, ma affatto diverse, misto d'un odore di fumo, mitigato dal fresco odore d'un ambiente forestale, e riconobbi che ad apparirmi tanto gradevole era lo stesso filare d'alberi che avevo trovato noioso da osservare e da descrivere e davanti al quale, in una sorta di stordimento, avevo creduto per un attimo di trovarmi, intento a stappare la bottiglietta di birra che avevo con me nel vagone, tanto l'identico rumore del cucchiaio contro il piatto m'aveva dato, prima che avessi il tempo di riprendermi, l'illusione del rumore del martello d'un operaio che aveva aggiustato qualcosa a una ruota del treno mentre eravamo fermi davanti a quel boschetto. Insomma, si sarebbe detto che i segni diretti a trarmi dal mio avvilimento e a restituirmi la mia fede nella letteratura mirassero quel giorno a moltiplicarsi, perché quando un maggiordomo da lungo tempo al servizio del principe di Germain e che m'aveva riconosciuto mi portò nella biblioteca dove stavo per evitarmi d'andare al buffet un assortimento di pasticcini e un bicchiere d'aranciata, io mi forbii la bocca con il tovagliolo che m'aveva dato, ma subito, come il personaggio delle Mille e una notte che senza saperlo compiva precisamente il rito che faceva apparire visibile a lui solo un docile genio pronto a trasportarlo lontano, una nuova visione d'azzurro mi passò davanti agli occhi, ma puro e salino, si gonfiò in mammelle cilestrine. L'impressione fu così forte che il momento che rivivevo mi parve fosse il momento attuale, più inebetito del giorno in cui m'ero chiesto se la principessa di Germain mi avrebbe davvero ricevuto o se sarebbe crollato tutto quanto. Credevo che il domestico avesse spalancato la finestra sulla spiaggia e che tutto mi invitasse a scendere per una passeggiata lungo la diga con l'alta marea. Il tovagliolo che avevo preso per forbirmi la bocca aveva esattamente lo stesso genere di rigidità e di inamidatura dell'asciugamano con cui, il primo giorno del mio arrivo a Baalbek, avevo fatto tanta fatica ad asciugarmi davanti alla finestra. E adesso, davanti a quella biblioteca di Palazzo Germain, dispiegava nei suoi lembi e nelle sue pieghe il piumaggio d'un oceano verde e azzurro come la coda d'un pavone. E io non godevo solo di quei colori, ma di tutto un istante della mia vita che li suscitava, che con ogni probabilità era stato aspirazione ad essi, di cui qualche senso di fatica o di tristezza mi aveva forse impedito di godere a Baalbek, e che adesso, puro e disincarnato, sbarazzato di quanto c'è di imperfetto nella percezione esteriore, mi gonfiava d'esultanza.